Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La prostituzione. Il quartiere cambia completamente il suo volto, da, come potete notare, da un quartiere normalissimo dove si vive la vita di quartiere normale, praticamente diventa invivibile. Qui spesso e volentieri contiamo dalle 20 alle 30 prostitute la notte. Ma a quest'ora se scendi giù le trovi? Ok, tante volte si mettono pure lì di giorno. 10-20 metri, ne ho contate 7, veramente tante. Ci deve essere una grossa richiesta per avere una grossa offerta di questo genere. Adesso ce li abbiamo quasi dentro ai portoni, dobbiamo barricarci dentro casa. Non è certo una situazione allegra, quella che avete sentito è un'inchiesta tratta dal sito web del Fatto Quotidiano che oggi dedica 2 pagine a una possibile proposta che è stata fatta in un municipio di Roma, per l'esattezza il 9° municipio, quello della zona euro, di trasformarlo in un quartiere a luci rosse. Infatti il titolo del pezzo di Rita Di Giovacchino è «E Roma accende le luci rosse». Interessante, questo accade lo stesso giorno in cui le vicende della capitale sono ormai all'onore della cronaca nazionale. Si apre la metro C, poi si chiude dopo 20 minuti, ma comunque funziona. Il sindaco Marino deve rispondere di alcune sue entrate nella zona traffico limitato, il mistero della Panda Rossa. Insomma, sono tante questioni che riguardano la capitale, una di queste che forse non è ancora balzata per la sua rilevanza è il fatto che a Roma si potrebbe aprire una sperimentazione di applicare il criterio urbanistico della zonizzazione alla zona maggiormente frequentata da prostitute. Come diceva giustamente la signora, se c'è tanta offerta vuol dire che c'è tanta richiesta, che a Roma ci sia comunque un massiccio, imponente e anche molto fastidioso per gli abitanti della zona, movimento notturno nella zona dell'euro, perché è diventata la zona principe delle prostitute. Poi durante il giorno sono dislocate sotto gli occhi di tutti, ma naturalmente passano inosservate dall'attenzione pubblica. In altre zone, le strade d'accesso a Roma, la via Salaria, la via Tiberina, sono piene di ragazzine di tutti i tipi, di tutte le etnie. Ma il fatto che gravitano di notte con un intensissimo movimento di automobili, di macchine, clienti, che il giorno dopo trovino preservativi ovunque, fazzolettini sporchi, le tracce, naturalmente dei rapporti consumati, questo fa sì che qualcuno voglia prendere provvedimenti. E il tipo di provvedimento è un provvedimento che ancora ha delle definizioni piuttosto incerte. Quello che vorrei capire questa mattina, quanto la possibilità di trasformare un'area di una città in una zona adibita alla prostituzione per creare meno disagi ai cittadini e prendere atto a tutti gli effetti, ormai il fenomeno prostituzione in Italia è un fenomeno a tutti gli effetti esistente, ci barcameniamo, l'abbiamo parlato più volte, con una legislazione che invece in qualche maniera prescinde dal fatto che esista la prostituzione. Ci sono stati vari tentativi, ne abbiamo parlato più volte, tentativi fantasiosi, qualcuno voleva riutilizzare i capannoni colpiti dal terremoto in Emilia per farne dei grandi super magazzini dedicati alla prostituzione, altri che hanno fatto tentativi di raccogliere firme per ritornare alla legalità della prostituzione, quindi alle case chiuse. Cerchiamo di capire cosa accadrà oggi a Roma, oppure cosa sta per accadere oggi a Roma. 800 24 00 24 è il numero di telefono, mi piacerebbe capire come voi vivete questo tipo di problema, se avete esperienza che in altre città d'Italia ci siano stati messi a punto esperimenti simili, cioè di creare delle aree circoscritte in cui si eserciti la prostituzione, o se voi siete romani e abitate nella zona dell'euro, e capire come realmente la situazione in quel quartiere. 800 24 00 24. Cosa ne pensa di questa soluzione che sta prospettando il municipio, di una zona di tolleranza nella prostituzione lontano dalle zone di residenza? Così a cielo aperto mi viene un palliativo. È una soluzione, un tentativo di soluzione, non ce ne sono molte altre, a livello nazionale non si muove nulla, siamo ancora agli inizi di questo progetto di Santoro e mi auguro, però il problema sarà come poter raccogliere i fondi, come pensare di spostare i prostituti, cioè che si va da ogni singola prostituta e dice spostati in quella zona. 800 24 00 24, queste erano le domande che ponevano alcuni cittadini della zona euro a fronte delle domande che venivano fatte comunque dalla giornalista del Fatto Quotidiano su come vedessero questo progetto. Vediamo di entrare nello specifico del progetto. Andrea Santoro, buongiorno. Buongiorno. buongiorno agli ascoltatori. Andrea Santoro, il presidente del nono municipio, è la persona che si sta in qualche maniera sta mettendo la faccia su questo progetto. Cerchi di farci capire esattamente di cosa si tratta. La zonizzazione cosa significa? Distribuire o concentrare in una zona circoscritta e controllata tutto il traffico di prostituzione notturno che sta all'euro? Ma intanto spiegare che come dire, il quartiere a luci rosse purtroppo già c'è, e appunto l'euro, non nessuno vuole inventarsi nulla. Io mi sono trovato con una situazione di fatto, nel senso che la maggior parte delle strade dell'euro, quasi il 50% delle strade dell'euro, sono interessate dal fenomeno della prostituzione. Questo accade da anni, Santoro, accade, tutti fanno finta di nulla, ma c'è il problema, è inutile. Esatto, è esattamente questo il tema, nel senso che c'è da decenni in questo quartiere. Ovviamente cresce perché, come diceva giustamente la signora nell'intervista, evidentemente anche la domanda sta crescendo. Lei ha dei numeri su quale, come sia in qualche maniera quantificabile il traffico notturno nella zona dell'euro? Ma i numeri esatti no, è evidente però che nel momento in cui ci sono circa 18 strade interessate da questo fenomeno, e quindi parliamo di decine di prostitute che sono presenti tra le strade del quartiere, vuol dire, così come è stato detto bene prima in altri esempi come sulla via Salaria o in altre zone della città, vuol dire che la richiesta è oggettivamente alta. La differenza rispetto, diciamo, sul tema della prostituzione, come è cambiata negli ultimi anni, è che oramai è quasi dentro casa delle persone. Tutte le mattine, tutti i giorni, i cittadini scrivono al presidente del municipio mandandogli le foto di quello che accade durante la notte o la sera prima. E oggettivamente ho detto forse è il momento di dire basta, diciamo, a questo disinteresse generale o a questo approccio tutto ideologico su questa materia. Sì, già mi ha scritto un ascoltatore, Nicoletti, dire che la prostituzione in base all'offerta bisogna essere ignoranti. È chiaro che vanno lì in tante perché ci sono tanti romani, padri di famiglia, scapoli, nonni, zii, nipoti, figli che vanno lì a puttane, è inutile prendersi in giro, se no non ci starebbero. Esatto, e siccome non, come dire, non nasce oggi, ma da più di qualche secolo, io credo che un amministratore debba come dire, affrontare questa vicenda, o meglio, io non posso pensare di chiudere gli occhi o di voltarmi dall'altra parte come anche perché spesso. Mi scusi Santoro, ma gli strumenti consueti di ordine pubblico, cioè le retate, le identificazioni, mi pare che sia talmente rilevante il fenomeno che nemmeno più ci si applica qualcuno. No, diciamo che sono strumenti eccezionali che vengono fatti ogni tanto, che però oggettivamente anche in questo caso non hanno risolto, come non hanno risolto le famose ordinanze antiprostituzione che sono state fatte anche a Roma negli anni scorsi. Allora, se noi vogliamo affrontare questo fenomeno soltanto sotto il punto di vista, diciamo, della sicurezza dei cittadini, è un conto. Se invece vogliamo anche dire guardate che chi si prostituisce sono persone, arredo urbano, allora penso che si debba fare proporre un progetto un po' più complesso che diciamo, noi abbiamo individuato come una delle ipotesi, questa dello zoning, cioè di individuare alcune aree del quartiere lontane dalle abitazioni, dove possiamo attivare tutte quelle che sono le iniziative per il controllo, quindi l'attività di indagine per il combattere il racket della prostituzione e, una cosa non secondaria, anche questo supporto alle prostitute che spesso non conoscono neanche i loro più elementari diritti che hanno in questo paese. Ecco, diciamo che è un progetto teoricamente ammirevole, però lei capisce che penso che il 90% delle prostitute che battono per strada fanno parte di un racket, sennò se ne starebbero tranquille a farlo a casa con il loro bel sito internet come fanno tutte. Come si riesce, diciamo, a intaccare un business che è anche notevole, e come si fa a queste ragazze che rischiano la vita ogni volta che hanno soltanto l'idea di sgarrare da quelle che sono le rigide regole del racket, a dirgli vieni qui che sarai controllata? È possibile secondo lei? È un lavoro di mediazione sociale vera e propria, nel senso che anche le stesse prostitute che ovviamente noi abbiamo fatto intervistare dalle unità di strada, cioè da questi soggetti che si preoccupano di confrontarsi con le prostitute, chiedono maggiore sicurezza anche per loro stesse, perché poi noi, come dire, lo consideriamo sempre secondario, ma tutti i giorni su una pagina di un giornale c'è sempre un'aggressione ad una prostituta o una violenza nei confronti di una prostituta. Sì, quando non le trovano a pezzi chiuse dentro un sacco. Bravissimo, esatto. Quindi perché un amministratore, un presidente del municipio deve dire, come di solito si fa in questo paese, ci vorrebbe una nuova legge? È chiaro che ci vuole una nuova legge. Come dire, si deve affrontare questo fenomeno per quello che è, ma nell'attesa io non mi posso permettere di scaricare la responsabilità su altri o buttare la palla in tribuna. Allora, fermiamoci solo un secondo, Andrea Santoro, perché ho già molte telefonate, vorrei fargliele ascoltare e poi vorrei con lei tirare delle conclusioni o perlomeno spiegare meglio com'è il progetto. Mi sembra che è un progetto articolato, non è semplicemente la solita boutade propagandistica, salviamo i nostri quartieri. No, c'è un progetto anche abbastanza difficoltoso e complicato da mettere in atto, che c'è un'azione sociale vera da fare anche sui soggetti interessati, che non sono solo i clienti, ma sono anche le ragazze che svolgono questa professione, questa attività. Roberto, buongiorno. Eccomi, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ma io, a me sembra un'ottima idea questa del quartiere, perché due sono i fattori. Il primo è sicuramente natura umana. Vedere in questo periodo invernale, soprattutto qui al nord, con le nebbie, queste povere ragazze per strada. Beh, non è che a Ferragosto a vederle sotto il sole il pomeriggio sia meglio. La stessa cosa, ecco. Sicuramente, a parte poi anche una questione igienica, insomma, di tutela loro. E poi c'è l'aspetto sicuramente di degrado della visione di quartieri che a volte si depressano per questa attività che secondo me sarà difficile debellare. Si potrebbe controllare e ci aggiungo anche, secondo me, anche tassare, ecco, e forse potrebbe. Questo è un discorso che abbiamo già fatto. Debellare, sei visto che debellare la prostituzione è un'utopia, chiaro, in un ordine generale di società perfetta non dovrebbero esistere schiave, dovrebbero esistere persone che fanno quello che vogliono tranquillamente, ma non è possibile. Quindi bisogna ricorrere comunque a delle possibili regolamentazioni. Ci fermiamo solo un istante per le informazioni del traffico, poi andrò avanti con gli altri ascoltatori, sentiremo da Andrea Santoro come nell'atto pratico in che tempi si svolgerà questa zonizzazione dell'euro. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando di un tentativo che sarà intrapreso nella capitale, a Roma, nel quartiere dell'euro, quartiere che ormai da decenni è attraversato da un fenomeno di intenso esercizio di prostituzione che ha completamente snaturato il quartiere, crea dei grossi problemi agli abitanti. Si sta cercando in qualche maniera, in assenza di un deciso strumento legislativo, perché nessuno ha il coraggio di mettere le palle su un progetto così difficile come quello di prendere atto che in Italia esista la prostituzione e quindi in qualche maniera vada regolamentata, ci si ferma dietro ai moralismi, ai pudori, agli atteggiamenti di facciata. Intanto le strade sono piene di schiave. Sentiamo qualche ascoltatore e poi riprendiamo con Andrea Santoro, presidente del municipio 9 Euro di Roma, che sta lanciando questa idea della zonizzazione. Mario, buongiorno. Buongiorno a lei. Mi chiamo dalla provincia di Latina, però io lavoro a Roma. Quindi conosce la situazione? Sì, sto ogni giorno a Roma, precisamente Santa Palomba. Allora, io voglio dire questo, no? Io faccio l'autista. E quindi praticamente sto sempre sulla zona la mattina. E cioè è una cosa proprio indescrivibile quello che sta su quella strada, tutte le traverse sulla strada principale. Quindi non è la prostituzione come una volta quando io ero giovane, perché io ho 58 anni. Il mondo cambia. Sì, ho capito, ma è proprio una cosa, cioè se uno porta una famiglia, un bambino, cioè non so come dovrebbe giustificarsi quando gli chiedono. E gli dice fa, sono, no? Signorine che battono, perché tanti altri papà di altri tuoi compagnetti di scuola ci vanno. È un conto battere, è un conto mostrarsi a farsi dei movimenti quando passi, a stare nude, sai cosa significa sì, nude? Cioè almeno al mare, cioè al mare che magari. Vabbè, lei deve fare una questione di pudore generale, è giusto questo, lo so. Quello che avete intervistato prima, non so chi era, che vuole. Cioè io vorrei stare una settimana, io personalmente, una settimana, e mi faccio vedere come avevo tutto sto schifo in mezzo alla strada. E cosa fa? Con lanciafiamme, con cosa fa? No, io levo, cioè, Non lo so quello che farei. Però sì, ma quelle ci stanno lì e svolgono quello che il loro, per quanto sia... Quello ogni tanto fanno la redata, però il giorno dopo stanno là, le stesse persone. Ma non è che cambiano. Ci stanno perché qualcuno ci va comunque, se no non ci starebbero. Capito che qualcuno ci va, però loro che dicono tutte queste case, le case chiuse, che non lo vogliono aprire, questo, quell'altro... quest'altro, tutte queste chiacchiere che fanno, è meglio secondo voi uno schifo che sta in mezzo alla strada? Vabbè, lei è indignato dalle donne nude, abbiamo capito. Alfredo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Io sono favorevole all'apertura delle case chiuse, sì, in quanto la prostituzione non si debellerà mai, perché sono 2000+ anni che c'è. Beh, anche prima. Almeno veramente le controlliamo clinicamente, medicamente, queste donne vengono controllate, non saranno schiave di nessuno e ci pagheranno sopra le tasse. Sì. Sembra facile, però il principio è questo. Paolo. Paolo, pronto? Buongiorno Paolo, il suo punto di vista. Ma guardi, io intanto la ringrazio per il collegamento. Volevo focalizzare l'attenzione sul problema di queste ragazze, però, perché quelle ragazze che battono in strada, mi scusi il termine. A me quello è ogni cosa ha il suo nome. Non sappiamo è che bene o male sono quasi tutte controllate dalla criminalità organizzata. È chiaro, quelle che battono in strada. Quindi il progetto è quello di spostare delle ragazze controllate dalla criminalità organizzata a diventare controllate dal governo. Non sarà indolore per queste ragazze, perché quando diventeranno non più profittevoli per i criminali, che cosa ne faranno di queste ragazze? Saremo in grado di tutelarle? Saremo in grado di veramente trasferirle da quel mondo a un mondo legale? Ma mi faccia capire il suo pensiero. Va legalizzata la prostituzione o va eliminata? Qual è il suo punto di vista? Il punto di vista è che bisogna però fare un progetto che comprenda il fatto che queste ragazze non è che dal giorno alla notte si tornano dalla strada e finché non viene... Ma nessuno ne vuole fare delle educande, quelle continueranno a battere se vogliono, l'importante è che non siano sfruttate, questo mi sembra capito, dalle persone che le tagliano a pezzi se non portano i soldi a casa la sera. Allora, Andrea Santoro, gli ho dato una piccola carrellata di opinioni generali, ma è chiaro, devo trovare un uomo che dice che non è d'accordo, ma anche una donna, ho fatto varie trasmissioni, però mi faccio capire nello specifico come risolviamo alcuni problemi. Primo, quello della criminalità organizzata, che si vede tolto una fetta fondamentale dei suoi profitti, e quella anche del cliente che gioca sull'impunità, lui va in strade non controllate proprio perché vuole consumare senza essere visto. Come può essere garantito la stessa riservatezza nel suo esercizio di cliente di prostituta in una zona controllata? Ma diciamo che intanto è bene ricordare, perché ogni tanto ce lo dimentichiamo, che la prostituzione in questo paese non è reato. È reato l'adescamento, lo sfruttamento della prostituzione. Io credo, insomma, che come dire, questo tipo di attività possa continuare a prescindere da quelle che sono le strade, nel senso che comunque, come dire, la clientela c'è sempre. La differenza sta nel fatto che noi riusciamo in qualche modo a controllare questo tipo di... Ecco, mi scusi, visto che siamo quasi in corso, vediamo di capire il meccanismo. Funziona così: si prende un'area, diciamo, fuori da quelle più abitate dell'euro, si convincono alcune ragazze che andare lì probabilmente per loro ha una maggiore sicurezza, e lì, diciamo, possono tranquillamente esercitare senza nemmeno paura di essere fermate, arrestate e via dicendo. Sì, in parte è questo, diciamo, la zonizzazione funziona in questo modo, si convincono ovviamente con operatori istruiti a fare questo, dopodiché loro non possono essere perseguite, ma non lo possono essere, diciamo, in nessuna area di questo paese, proprio perché la loro attività non è illegale. La differenza è che viene punito fortemente il cliente, invece, che vuole andare ad esempio con prostitute che sono esterne a queste aree. Allo stesso tempo, nelle aree che, diciamo, possono essere individuate, le forze dell'ordine, la polizia locale può in maniera... Ho capito, si aumenta la pressione, diciamo, nelle aree attuali, e si allenta la pressione nelle aree in cui non danno fastidio, quindi in qualche maniera si crea una sorta di camera di compensazione. Esatto, però se c'è ovviamente la presenza, diciamo, delle forze dell'ordine, delle attività di indagine, proprio per verificare che anche in queste aree, per verificare quello non che si svolgano dietro, reati, non si svolgano. Esatto, esattamente. In bocca al lupo, quando avremo qualche notizia concreta di come andrà avanti l'esperimento ci risentiremo. Alla prossima.